Cantine di Franciacorta. Bentrovati da Adro, visitiamo oggi la cantina Ferghettina della famiglia Gatti. Partita da zero nel 1991, l'azienda oggi produce 350.000 bottiglie, di cui 230.000 bollicine. Gestione familiare, grande gentilezza verso tutti i visitatori, la famiglia Gatti vinifica da 80 ettari di vigneti, con una scelta particolare in spremitura. Sentiamo quale dall'enologa Laura Gatti. Dei nostri terreni andiamo ad imbottigliare, quindi andiamo a far diventare Franciacorta solo il mosto fiore, solo la prima spremitura, che in realtà è una percentuale piuttosto bassa rispetto al totale che si può ottenere, però questo è il nostro modo di lavorare e, come dice mio papà, che è piuttosto saggio, per fare il vino buono nelle annate buone sono capaci tutti, dobbiamo riuscire a farlo buono anche nell'annata così così, e quindi per ogni annata essere in grado di togliere il meglio e proporre il meglio nei nostri vini. Alla prossima tappa. Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.